scoprimi un po' per volta. Cerca ciò che è dentro di me, quello che mi turba, che mi fa stare male e non riesco a esternare. Aiutami, prendimi, non lasciarmi cadere in questo vuoto, lì dove non c'è ritorno. Aiutami, prendimi, non lasciarmi cadere in questo vuoto, lì dove non c'è ritorno. Asciuga le mie lacrime, ritrova il mio sorriso, avvolgimi nel tuo abbraccio e rimani al mio fianco sempre fino all'infinito. Prendimi, trascinami, legami, portami via con te, lontano, proteggimi nel tuo cuore. Portami via con te, lontano, lontano.